thou askest then, was at the hour the sanger is ken, then in shenak harhan, amun is ten ken. Chicca, quella con cui abbiamo iniziato la puntata di oggi, questa è una canzone, una strofa da una canzone della Repubblica Autonoma Sovietica del Karakalpakstan, si intitola Sono comunista e la strofa dice sono nato in un piccolo villaggio, cresciuto attraverso la tempesta, sulle montagne su cui cade forte la pioggia, continuerò a lottare per la libertà dei miei compagni e anche attraverso le difficoltà io rimango comunista. Ve l'ho messa perché a me personalmente mi piace molto, devo dire, la musica, la tradizione musicale della diciamo delle canzoni propagandistiche delle varie repubbliche sovietiche. Mi piace perché è cantata in lingue locali, quindi quello che avete appena sentito è Karakalpako. Il mio algoritmo di YouTube, d'altra parte, è anche completamente distrutto da questo podcast, per cui mi vengono proposte in continuazione queste canzoni. Potete immaginare come cosa ascolto durante la giornata, e ve l'ho messa perché oggi andiamo a parlare di Karakalpakstan e quindi volevo iniziare dandovi un assaggio di quella che è la lingua locale, e partendo da appunto il momento storico in cui sono nati, diciamo, i problemi di questa regione che vengono poi trascinati, di cui parleremo oggi. E quindi prima di iniziare questa puntata volevo dare un piccolo caveat che per me è stato particolarmente complicato mettere insieme la puntata di oggi, perché è difficile trovare notizie su quest'area del mondo, non soltanto in lingua inglese ma anche in russo, e ovviamente io non parlo Karakalpako, per cui non posso usare le notizie locali come fonte. In particolare c'è anche il problema che le notizie in lingua inglese sono prodotte da gente che è vicina agli interessi della difesa statunitense. Se ascoltate Radio Onda Rossa penso che condividerete comunque l'idea che pensare che qualcuno possa fare diciamo la copertura giornalistica di un avvenimento in maniera non ideologica comunque è abbastanza disingenuo, però non per questo voglio esporvi in maniera acritica a quello che la difesa statunitense pensa dell'avvenimento, anche a fronte di quello che è stato il ruolo storico degli Stati Uniti comunque nel supportare alcune pratiche non propriamente, diciamo, chiarissime, trasparenti di rispetto dei diritti umani all'interno dell'Uzbekistan. Ho cercato di raccapezzarmi tra varie notizie, è stato più difficile del solito, spesso mi è sembrato di trovarmi davanti a un gioco del telefono senza fili in cui ci si fa raccontare una notizia e poi non si capisce bene quali sono le fonti, eccetera. Un'altra cosa che io dovrei menzionare è che tanti dei giornalisti di lingua inglese ammettono in maniera, tra l'altro per me particolarmente strana, devo dire, ma stupito, ma boh, non, cioè vabbè, i miei pensieri su questa cosa, ma me li terrò per me, però ammettono tranquillamente che loro non parlano né russo, né kazako, né uzbeko, né karakalpako, e quindi le notizie che gli arrivano da membri della comunità che parlano inglese. Secondo me, teniamone conto, ecco, nel raccontarci questa situazione, perché mi sembra di comunque aver notato che la copertura fatta appunto in lingua inglese è molto ristretta a una serie di cose, e quindi io ho cercato di fare del mio meglio nel rappresentarvi questa situazione, ma sono sicura che ho saltato dei pezzi perché non, semplicemente non era possibile per me verificarli o averne accesso. Quindi con ciò iniziamo la puntata di oggi e parliamo del Karakal Pakstan. Allora, il Karakal Pakistan è una regione autonoma dell'Uzbekistan che si trova nella parte più occidentale del paese. Se avete vagamente in mente i confini dell'area, sapete che sulla sponda est del Mar Caspio l'Uzbekistan non arriva a toccare il Caspio perché viene completamente bloccato dal Turkmenistan e dal Kazakistan. Quindi il punto in cui il Turkmenistan e il Kazakistan si toccano sulla sponda est del Caspio corrisponde al punto dove c'è il confine del Karakal Pakistan, quindi è in questa regione dell'Uzbekistan dell'Ovest. Sappiamo che i confini della regione, insomma, sono sempre stati abbastanza complicati da definire, di tutte le i vari stati centroasiatici, e in questo caso non è diverso. Il Karakal Pakistan era originariamente, prima di tutto, di cultura nomadica. Etnicamente i Karakalpaki sono più vicini ai kazaki che non agli uzbeki, quindi non solamente perché esiste la cultura, appunto, la cultura nomadica già ci avrebbe dovuto dare un'idea, però anche perché la lingua karakalpaka è, diciamo, imparentata con il kazako. Fanno parte dello stesso ramo linguistico che si chiama Kipchak del sud, e io direi impressionisticamente, dopo aver visto nella capitale del Karakal Pakistan appunto informazioni, cartelli scritti in karakalpako, mi sembra che la loro vicinanza sia ancora più alta di quella tra lo spagnolo e l'italiano, quindi sono due lingue che tra di loro sono abbastanza comprensibili. La politica di presentazione delle informazioni all'interno dei palazzi istituzionali della capitale, Nukus, è quella di presentare le informazioni nelle tre lingue, russo, uzbeko e karakalpako, e devo dire si capisce abbastanza il karakalpako, molto di più dell'uzbeko se avete una base di comprensione del kazako. Il termine Karakalpak significa cappello nero, che è una feature, diciamo una caratteristica culturale dell'abito tradizionale. Kara significa nero, Kalpak è il termine locale per definire quello che da noi è il colbacco, quindi un tipo di cappello fatto di pelo per fondamentalmente isolare dal freddo, quindi questo è un elemento della tradizione, e da qui viene poi stabilizzato il nome di questa popolazione. Diciamo, una delle caratteristiche più importanti della regione è il fiume della Mudaria, che è uno di questi fiumi immensi che passano attraverso l'Asia centrale, che appunto segna un po' il confine tra la regione e il Turkmenistan. Il confine tra il Karakal Pakistan e il Turkmenistan è stato molto complicato nei secoli. Ci sono stati, vabbè, passaggi di emirati e canati vari, per cui le città, i villaggi sul lato Karakalpako sono passati a far parte del Turkmenistan, cioè di quello che poi oggi è il Turkmenistan, all'epoca ovviamente non si chiamava così, svariate volte. Vicino si trova la città di Kiva, che appunto si trovava originariamente in territorio turkmeno e poi è stata oggetto di una migrazione, quindi ci sono oggi due città di Kiva, Kiva e Kivorgenk, che sono diciamo fondate dalle stesse persone nella storia, ma sono sui due lati opposti del confine. La regione ha anche una grandissima storia di zoroastrismo, quindi all'interno della Repubblica del Karakalpakstan oggi è possibile andare a visitare ancora le tombe zoroastriane, che sono c'è questo divieto di seppellire i morti sottoterra, e quindi sono delle specie di enormi torri in cui i morti vengono lasciati all'interno, perché l'idea è che debbano poter essere, per esempio, mangiati dagli uccelli, quindi ritornare alla natura. La regione è abbastanza impressionante da visitare perché è una specie di deserto, quindi abbastanza diversa dal resto dell'Uzbekistan, con appunto queste costruzioni zoroastriane in mezzo alla steppa sconfinata, ed è molto molto bella, però anche molto desolata. E per arrivarci dall'Uzbekistan bisogna passare la Mudaria passando un ponte di barche, che è stata l'esperienza più paurosa della mia vita, forse seconda solo a attraversare il lago Baikal ghiacciato. Appunto si arriva in questa città, Nukus, la capitale, che è famosa per avere il museo di pittura d'avanguardia sovietica con la collezione più grande del mondo. Il motivo di questo museo è che Nukus si trova in una regione che è così isolata dal centro, da Mosca, che un famoso storico dell'arte sovietico decide di trasferirci. Sì, lui ci si trasferisce per fare delle ricerche sull'arte locale, però lui è anche un esperto di, appunto, pittura d'avanguardia, e decide di formare il suo museo. Col tempo tutta l'arte critica del governo sovietico, che non viene distrutta, viene fondamentalmente inviata in questo posto sperduto nel nulla, dove questo storico dell'arte la compra, e quindi si forma questo museo che ho avuto la fortuna di visitare, ed è veramente impressionante perché, ripeto, siete nel mezzo della steppa, in quella che oggi è la regione più povera dell'Uzbekistan, si erge questo museo gratuito per i cittadini uzbeki, di cui l'esistenza viene fondamentalmente sponsorizzata da esperti e critici d'arte stranieri, in cui ci sono delle opere d'arte veramente bellissime, di, appunto, dagli anni 20 agli anni 60 dell'Unione Sovietica. La Repubblica del Karakalpakstan è l'area dell'Uzbekistan che è stata più colpita dal disastro ecologico del prosciugamento del lago Daral. La regione aveva una sua, diciamo, economia attorno all'esistenza del lago, che negli anni 70 è stata completamente spazzata via dal fatto che il lago è scomparso, perché le sue acque sono state utilizzate per supportare la monocultura del cotone all'interno dell'Uzbekistan. Quindi la regione si trova quasi in maniera immediata a diventare povera, e oggi, appunto, è la regione più povera dell'Uzbekistan, che è già un paese non particolarmente abbiente. Nella storia il Karakalpakstan aveva avuto un momento di speranza nell'indipendenza, quando nel 1932 diventa una repubblica autonoma sovietica, con il nome di Karakalpak SSR, ma viene poi nel 1936 riaggiunta all'Uzbekistan e diventa quindi una ASSR, quindi una Repubblica Socialista Autonoma, che però è un ordinamento che la pone all'interno di una istituzione federale più grande, che è quella dell'Uzbekistan. Quindi dal 1936 il Karakalpakstan è parte dell'Uzbekistan, ma ha sempre mantenuto delle speranze di indipendenza. La politica dell'area è quella che viene chiamata della Druzhba Naroda, l'amicizia tra i popoli, quindi l'idea che non viene, l'Uzbekistan, la Repubblica Socialista Sovietica dell'Uzbekistan, si rappresenta come un elemento unitario sottostima le correnti culturali. la popolazione caracalpaca, diciamo, denuncia spesso nella storia la discriminazione da parte delle autorità uzbeke. Si arriva nel 1991 che i caracalpachi decidono di provare ad ottenere l'indipendenza, perché l'Uzbekistan ha appena dichiarato la sua indipendenza dal resto dell'Unione Sovietica e loro fanno lo stesso e cercano di sfruttare il momento di crisi, diciamo, per stabilire un proprio stato. Per un periodo di tempo riescono ad avere un presidente. Un governo che dura pochissimo e questo per me è particolarmente interessante, perché io, cercando informazioni su questo presidente, non so se le ho guardate nel posto sbagliato, ma ho trovato, diciamo, versioni contrastanti tra chi pensa che in realtà, cioè storici che negano l'esistenza di questa figura e invece altri storici che forniscono i nomi del governo. Quindi penso che la situazione sia stata che, appunto, c'è stato un tentativo di stabilire l'indipendenza del Karakalpakstan, non ci sia riusciti, o comunque ci sia riusciti per pochi mesi, e quello che è successo è che poi l'Uzbekistan, il governo uzbeko, ha negoziato un accordo con la regione, e nella costituzione del 1993, se non sbaglio, 1992 o 93, comunque inserisce un emendamento, un articolo che dice che il Karakalpakstan ha il diritto futuro, senza stabilire una data, però esiste un diritto del Karakalpakstan di votare per un referendum secessionista. Quindi la Costituzione garantisce questa possibilità, senza però stabilire quando succederà. A questo punto si fermano le discussioni attorno all'indipendenza del Karakalpakstan, però con, appunto, questa conferma del fatto che, volendo, in futuro si potrà esercitare questo diritto. I Karakalpachi, similarmente a quanto succede con altre minoranze che si trovano all'interno dell'Uzbekistan, come per esempio quella dei Tagiki, a questo punto iniziano a documentare una serie di discriminazioni che loro sostengono essere, cioè, appunto, agite dal governo, in particolare contro di loro. E ovviamente, cioè, la regione, diciamo, aumentano i casi di malattie dovuti alla scomparsa dell'Aral. Quindi la situazione anche di sanità pubblica peggiora molto nella regione quando l'Aral viene prosciugato. Si hanno dei report di sterilizzazioni forzate delle donne karakalpache, che sono stati negati dal governo uzbeko, e vengono anche riportate dalle popolazioni tagiche e romani. L'ultimo censimento all'interno dell'intero paese dell'Uzbekistan è del 1989, quindi il fatto che non ci sia un censimento della diciamo, quantità delle divisioni etniche all'interno del paese fa sì che richiedere l'indipendenza della regione diventi complicato, perché sapete che all'interno dell'Asia centrale c'è quest'idea, e anche della Russia, che le regioni che ottengono l'indipendenza la ottengono in quanto c'è una minoranza, un gruppo etnico che ne è titolare. Senza sapere quanti Karakalpachi vivono in Karakalpakstan, non si può fare affidamento su questa, non si può richiedere questa indipendenza. Quindi dal 1991 fino al 2022 la situazione è quella che vi ho appena descritto. Questa regione ha probabilmente una maggioranza di popolazione etnicamente diversa dagli uzbeki, molto più simile ai kazaki. Vorrebbero l'indipendenza, la Costituzione gli promette che ci sarà un momento in futuro in cui questa indipendenza potrà essere discussa attraverso un referendum. Nel giugno del 2022 lo Stato uzbeko, il governo uzbeko, decide di cambiare la Costituzione tutte queste, diciamo, serie di problemi che stanno montando per 30 anni esplodono. Prima di parlare di quello che è successo nel luglio del 2022, ci fermiamo con una pausa musicale. La prima canzone che voglio mettervi oggi è una canzone tradizionale in lingua caracalpaca, si intitola Kaitarip Bir Amudariamni, che significa dammi indietro il mio Amudaria. È una canzone tradizionale cantata con uno strumento tipico a corde che è molto simile alla dombera kazaka, ma non identica, un po' più piccola. Si riferisce a episodi storici appunto di queste guerre tra i Khan kazaki, uzbeki e i caracalpachi, che in un momento in cui appunto i caracalpachi hanno perso la sovranità sopra la zona della Mudaria. E cosa molto particolare che a me personalmente ha stupito, cioè se ascoltate appunto questo, la persona che fa la performance, di cui purtroppo non conosco il nome perché non è stato documentato dallo Smithsonian Museum, se ascoltate la performance sentirete che c'è un accenno di canto di gola, che è questa tecnica di canto che è molto sviluppata in Mongolia, Siberia, e che io non pensavo arrivasse così a sud, devo essere sincera. Probabilmente un'altra riprova del fatto che questa popolazione è effettivamente nomadica, in quanto mi sembra che comunque il canto di gola è abbastanza diffuso tra altre appunto culture nomadiche. Quindi questa è Kaitarip Bir Amudariamni, dammi indietro il mio Amudaria, musica tradizionale caracalpaca. Kaytar permenin amudaryanda quindi nel giugno del 2022 il governo uzbeko decide di fare un cambiamento di costituzione. Dal 2016 al 2022 l'Uzbekistan ha avuto una serie di cambiamenti molto rapidi. Nel 2016 muore Islam Karimov, che era il presidente dell'Uzbekistan, era rimasto in carica fin dal 1991 perché era il segretario del Partito Comunista Nazionale dell'Uzbekistan al momento dell'indipendenza, e gli succede Shavkat Mirziyoyev, che è un politico molto interessato a fare quello che lui chiama il nuovo Uzbekistan, cioè a riformare i rapporti tra il governo e i cittadini, le minoranze, eccetera. L'Uzbekistan fino a quel momento aveva avuto una fama terribile all'interno della comunità internazionale, in parte dovuta anche agli Stati Uniti, nel senso che l'Uzbekistan, ci sono diciamo molti rapporti di Amnesty International che confermano il fatto che nelle carceri uzbeke la tortura venga utilizzata di routine come maniera per estrarre confessioni. Nell'intervento militare in Afghanistan gli Stati Uniti avevano delle basi militari all'interno dell'Uzbekistan, in cui è stato documentato che fondamentalmente loro mandassero i prigionieri che volevano far torturare. Quindi c'è anche questa ulteriore complicazione per quello che vi dicevo precedentemente, no? Nel trovare le informazioni, perché gli Stati Uniti diventano a un certo punto molto vocali contro l'Uzbekistan, contro la violazione dei diritti umani sistematica che avviene all'interno delle loro carceri, però questo diciamo essere vocali sulla questione avviene solo dopo un certo momento storico, nel senso che finché c'è l'intervento in Afghanistan questa violazione dei diritti umani nelle carceri era molto, molto poco problematica per gli Stati Uniti. Quindi, ripeto, cioè, quando vediamo notizie che ci arrivano da gente vicina alla difesa degli Stati Uniti, c'è sempre da fare un piccolo lavoro di eliminazione dell'impianto ideologico con cui ci arrivano. Comunque, nel giugno del 2022 il governo finalmente pubblica una bozza della nuova Costituzione e eliminano la clausola che garantisce il referendum separatista. Appunto, dal 1993 il Karakalpakstan Pakistan è una repubblica autonoma all'interno, una regione autonoma all'interno dell'Uzbekistan, e la nuova costituzione di fatto eliminerebbe questo status. Una serie di giornalisti, attivisti si accorgono di quello che sta succedendo, iniziano a parlare pubblicamente del cambiamento. Queste circolazione di notizie avviene soprattutto sui canali di Telegram di questi giornalisti, che vengono immediatamente arrestati. Vengono arrestati con una serie di accuse che sono tipiche nell'area da sentire, che di solito sono la fomentazione del dissenso e del conflitto etnico, e in questo caso c'era anche un'accusa che a me personalmente aveva fatto abbastanza sorridere, di voler sovvertire l'ordine costituzionale, che in questo specifico caso appunto fa sorridere perché questi attivisti invece erano particolarmente impegnati nel mantenere la Costituzione originale. Comunque all'arresto di questi attivisti succede immediatamente una protesta. Una protesta che si scatena l'1 e il 2 luglio del 2022 a Nukus, la capitale del Karakalpakstan, in cui la polizia interviene in maniera brutale. Si contano 21 morti sul momento, più di 500 arresti, centinaia di feriti, ci sono state svariate persone che sono morte in un secondo momento mentre erano in custodia della polizia. Non ci sono stati arresti di poliziotti per quello che è successo. Il governo apre una commissione per guardare, per cercare di capire tra virgolette, ovviamente, una commissione per stabilire qual è la loro posizione ufficiale sugli avvenimenti, ma non porta ad arresti per i poliziotti. una protesta che è stata più grande di quelle della regione di Andijan nel maggio 2005, che era stato un altro momento nella storia dell'Uzbekistan in cui c'erano stati scontri terribili con la polizia, e il governo come come risposta elimina gli emendamenti, per cui sulla superficie c'è una vittoria da parte di questi attivisti. Ora, durante questa protesta e durante la repressione per fermarla, il governo nega che sia stata fatta in maniera violenta, però durante i giorni della protesta c'è un blocco dell'internet nell'intera regione, non si riesce a comunicare con l'esterno. I feriti che iniziano ad arrivare negli ospedali arrivano con ferite di granate, esplosivi di vario tipo e pattern di crivellazioni di colpi di proiettile che è compatibile con i Kalashnikov. Si iniziano poi a vedere video della polizia armata con Kalashnikov che spara sulla folla. E questo sciocca l'opinione pubblica, perché già sparare sulla folla normalmente sarebbe abbastanza scioccante, ma il fatto che avessero in mano armi automatiche fa pensare proprio a un tentativo di reprimere completamente nel sangue questa protesta. La commissione, nel 15 di luglio il governo uzbeko stabilisce una commissione che però non ha una data di fine dei suoi report, soprattutto non si ha, non viene dichiarato quali sono i limiti del rapporto che verrà fatto, cioè non si capisce esattamente questa commissione cosa dovrebbe studiare. Ci sono una serie di giornalisti stranieri a cui viene permesso di entrare nel paese per andare a fare interviste nella zona di Nukus, per cui c'è comunque un tentativo del governo uzbeko almeno inizialmente di presentare, cercare di fermare lo scandalo. A questo punto iniziano i processi per gli attivisti che sono stati arrestati. All'interno di questi processi ci sono alcuni degli attivisti che fondamentalmente ammettono la colpa, sostengono di aver fomentato la violenza, chiedono perdono, e queste sono persone a cui viene commissionata una pena più piccola. Ci sono poi però degli attivisti che dichiarano di essere stati torturati in carcere, quindi si pensa che le confessioni estorte a questa gente non siano effettivamente valide. Questo è quello che succede ai Karakalpaki all'interno del paese. Questi processi vengono mandati in TV, ma vengono mandati in TV censurati, ci sono interi pezzi che vengono eliminati e sono i momenti in cui appunto gli attivisti parlano del loro trattamento all'interno delle carceri uzbeke. Si arriva così a il febbraio del 23, in cui ci sono ancora centinaia di persone che sono in custodia, alcune sono morte in custodia, non si sa chi siano queste persone, il governo non rilascia i nomi, il governo non rilascia i nomi delle vittime e non rilascia i nomi e non rilascia la composizione etnica degli arrestati, quindi non si sa se queste persone siano effettivamente Karakalpake oppure no. Nel frattempo, mentre l'Uzbekistan gestisce la situazione interna, decide di fare una cosa abbastanza strana, che è quella di andare a colpire i Karakalpaki della diaspora, quindi di andare a focalizzare la sua attenzione non soltanto su chi vive all'interno del paese, ma anche su persone che sono fuori dal paese da decine di anni per fermare la comunicazione che queste persone possono avere con l'esterno. Quindi mi fermo per un'altra pausa musicale e dopo la pausa musicale parliamo di quello che sta succedendo e continua a succedere in Kazakistan e in Europa agli attivisti karakalpaki e ai cittadini karakalpaki in generale che vivono all'estero. Vi metto una canzone che è strana. Allora, vi metto una canzone del 2010. L'autore si chiama DJ Miran, la canzone si chiama Macho. È bellissima secondo me. Il motivo per cui ho scelto questa canzone è che lui fa strofe appunto di musica pop in quattro lingue, mischiando spagnolo, inglese, russo e karakalpako. Ovviamente potete immaginare che chiunque sia in grado di fare questa cosa ha perennemente la mia stima, e quindi questo è DJ Miran con Macho. questa era Match di DJ Miran, che a parte avere delle strofe in cui lui ci dice che diventerà il numero uno della musica pop, cara Kalpaka, e avere un'altra strofa in cui tipo fa l'elenco delle nazionalità di cui lui non fa parte, secondo me, cioè io ho riascoltato questa canzone svariate volte per capire il ritornello che ha quattro lingue, sono convinta che dica Mien Karakim Macho Orta Chakra Savizzo, I'm a nice guy so don't let me go, e io immagino voglia dire io sono un un macho caracalpaco, sono di bellezza media, così lo tradurrei. Krasavitso tra l'altro non esiste come termine in russo, è un, cioè la parola krasavits vuol dire bellezza, però lui mette la O secondo me per fare la rima con la parola spagnola macho, poi sono un bravo ragazzo quindi non lasciarmi scappare, è bellissimo, non ho altri commenti, è tipo, è tutto quello che una accademia di difesa della lingua nazionale odierebbe, secondo me, per cui ne sono assolutamente affascinata. Vabbè, comunque, al di là di questo, canzone bellissima, ripeto, appunto, con quattro lingue all'interno del ritornello. Torniamo a parlare di quello che sta succedendo ai caracalpachi della diaspora, perché i caracalpachi vivono tanti di loro fuori dall'Uzbekistan, in particolare uno dei paesi dove vivono è il Kazakistan. Perché? Perché in Kazakistan ci sono, cioè vi ho già detto, la lingua è molto simile, quindi ci sono più possibilità di lavoro in generale all'interno dello stato kazako che in Karakalpakstan, è un paese dove la lingua bene o male si apprende facilmente, e quindi tanti caracalpachi vivono lì, vivono nel sud del Kazakistan, in particolare nella città di Almaty o fuori dalla città di Shymkent, dove ci sono delle zone con grandi comunità uzbeke e caracalpache. Vivono lì magari da anni, e a un certo punto tra il settembre e il novembre del 2022 il governo uzbeko inizia a mandare una serie di richieste di estradizione al Kazakistan per farsi rimandare indietro queste persone. E in particolare ci sono cinque persone che vengono colpite da questa richiesta, che vengono arrestate tutte tra il settembre e il novembre del 22 e passano un anno in carcere accusate di cospirazione per abbattere il governo uzbeko. Il Kazakistan ha un limite sul, cioè questo è carcere preventivo, sono state accusate ma non sono state né rimandate in Uzbekistan né sono state trovate colpevoli, quindi c'è un massimo tempo che è quello di un anno che si può passare nel carcere preventivo in Kazakistan, e mi sembra di aver capito da questa vicenda perlomeno. Dopodiché bisogna capire cosa fare di questa gente, e in particolare è interessante che sono quasi tutte persone che parlano inglese, che sono state targettizzate, facendo pensare che l'obiettivo del governo uzbeko è proprio quello di non far diciamo conoscere la situazione o connettere queste persone a media stranieri. C'è in particolare il primo di questi arrestati, per cui cioè appena viene rilasciato non viene rimandato in Uzbekistan e manda una richiesta di asilo al Kazakistan. Poi tutte queste persone faranno la stessa cosa, quindi vengono rilasciate dopo un anno, mandano la richiesta di rifugiati. Il Kazakistan concede pochissime richieste, status di rifugiati, in particolare lo fa con persone che arrivano dall'Afghanistan, di solito non così tanto dall'Uzbekistan, il Kazakistan era anche stato all'interno di diciamo una specie di diatriba, perché loro non riconoscono, non concedono lo status di rifugiato agli uiguri, per esempio, per cui quello che succede è che poi queste persone possono stare all'interno del paese, però sono in una specie di limbo in cui diciamo il Kazakistan non dà l'estradizione, ma non concedendo l'asilo politico non è chiaro cosa possa succedere quando cambierà idea. cosa che peraltro cioè, in alcuni casi succede perché il Kazakistan ha per esempio rimandato alla Russia persone che erano state accusate di aver fatto diserzione alla leva militare durante appunto il recente conflitto, quindi questi cinque prigionieri politici sono ancora all'interno del paese, non hanno uno status chiaro e vorrebbero appunto rimandare questa richiesta di asilo e sono in possesso di cioè appunto il primo di loro che è uscito è in possesso di un permesso di rimanere all'interno del Kazakistan fino a maggio del 2024, adesso estendibile, in realtà è stato esteso, era estendibile per 3 mesi, però non si sa cosa succederà quando scade questo permesso e quindi c'è la paura che queste persone esprimono di essere rimandate indietro in Uzbekistan e essere di fatto fatte scomparire nel sistema carcerario. Alcuni karakalpaki riescono invece ad uscire dal Kazakistan prima di essere detenuti e cercano rifugio in Europa. In particolare c'è un tentativo di far appello all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea, la OSCE, che ha una specie di meccanismo di mediazione tra minoranze e governi, a cui alcuni karakalpaki vorrebbero fare ricorso per diciamo convincere, forzare il governo uzbeko a sedersi a un tavolo a discutere con loro. Questa mossa fa scattare richieste di estradizione da parte dell'Uzbekistan agli stati europei in cui si trovano questi attivisti e li mette in una situazione più complicata di quella del Kazakistan, perché cosa succede? Dall'Asia centrale per entrare in Europa è abbastanza complicato, c'è una fortissima remora da parte degli stati europei a concedere lo status di rifugiati in seguito a quella che era stata la crisi nel 2015 dei rifugiati dall'Afghanistan, c'è anche poca comprensione da parte diciamo dell'Unione Europea di quelli che sono i rischi magari di questa gente nei propri paesi di origine, questo perché appunto le informazioni sull'Asia centrale in generale sono scarse sempre e quindi in generale è difficile per queste persone ottenere lo status di rifugiato politico. Un altro problema particolare è poi la cosiddetta procedura di Dublino per la richiesta di asilo. Questa è cioè un meccanismo che funziona per tutti i migranti, che per i centroasiatici è stato particolarmente problematico perché ottenere un visto d'ingresso per Schengen arrivando dall'Asia centrale è molto più facile attraverso i paesi dell'ex blocco sovietico. Questo significa che molto spesso la Polonia è il punto d'ingresso nel paese, cioè nel paese, nell'Unione Europea, nell'area Schengen, per tanta gente con passaporti centroasiatici. Però la Polonia non è vista come un posto dove è sicuro vivere ottenendo uno status di rifugiato politico e quindi tanti di questi attivisti cercano di ottenere poi il loro status da parte della Germania o dell'Austria, che invece sono più, cioè sono viste come diciamo più solidali da questo punto di vista, per tutta una serie di motivazioni che cioè non copro perché saranno sicuramente complicatissime. Il protocollo però di Dublino obbliga chi chiede status di rifugiato politico a fare domanda nel paese che è il punto d'arrivo della persona, per cui l'Austria non si può fare carico di accettare queste richieste di rifugiato politico, ma le passa alla Polonia. E la Polonia nega tutte queste richieste, effettivamente mettendo queste persone di nuovo in situazioni problematiche, questa volta non solo perché non hanno lo status di rifugiato politico, ma perché all'interno ovviamente del Kazakistan ci sono degli accordi per cui la loro cittadinanza gli permette di rimanere, però in Europa no, quindi una volta che il visto scade, cioè questa gente dovrà tornare in Uzbekistan. E il fatto di queste persone non è ancora chiaro, perché appunto stiamo parlando di situazioni che si stanno risolvendo nel maggio del 2024, diciamo partendo da febbraio a maggio del 2024, e quindi non è esattamente chiaro cosa succederà a queste persone. E lo Stato uzbeko ha a volte accusato questi attivisti di essere sponsorizzati dall'estero con la ben nota legge degli agenti stranieri, di cui abbiamo parlato in altre occasioni all'interno delle corrispondenze fatte per Radio Onda Rossa. E quindi, diciamo, appunto, questa situazione viene complicata da una serie di accuse che vengono mosse da alcuni soggetti ad altri, di cui, ripeto, non è facile capire assolutamente all'interno della copertura mediatica fatta per l'avvenimento cosa sta succedendo. Chiuderei dicendo che cioè, la difesa del governo uzbeko sulla manifestazione in particolare successa nel luglio del 2022 sono abbastanza simili a quelle che si sentono fare in Italia di ogni manifestazione, in cui fondamentalmente il governo si è difeso nella decisione di intervenire violentemente, sostenendo che ci fossero delle persone pagate per avere appunto per essere violenti in particolare pagate dall'estero. Questo non succede in Italia, però diciamo tutto il mondo è paese nel gestire il dissenso della popolazione, e fa sempre comodo avere a portata di mano individui a cui si può addossare la responsabilità di aver iniziato, no, lo scontro violento con la polizia, anche in presenza di materiale video che invece conferma l'assoluto opposto. Quindi da questo punto di vista proprio in Italia sappiamo di cosa stiamo parlando. Ma l'altra cosa che volevo dire è che c'è un'altra regione dell'Asia centrale in cui sta succedendo qualcosa di simile al Karakalpakstan, in cui ci sono stati violenti scontri con la polizia e una repressione molto violenta negli ultimi 3 anni, ed è quella del Gorno-Badakhshan all'interno del Tagikistan. Perché menziono questa cosa? Perché entrambe le regioni sono aree dove la popolazione locale è diversa da quella della maggioranza dello stato dove si trovano, e sono aree molto povere ma che sono ricchissime di gas e risorse naturali. Quindi sono delle aree che hanno delle aspirazioni secessioniste, che non è chiaro in realtà come vengano poi espresse da vari gruppi della popolazione, e qui di nuovo c'è questo problema, cioè noi abbiamo una copertura dell'area che finge che le comunità all'interno di questi stati siano un monolite. Ovviamente cioè, ci saranno strati diversi della popolazione che hanno aspirazioni diverse secondo le loro identità. Questo tipo di conflitto ovviamente cioè, peggiora se pensiamo che appunto queste sono aree di grandi giacimenti di gas e petrolio che vengono venduti alla Russia. Quindi c'è anche un interesse diciamo di vari attori all'interno della regione nel mantenere queste regioni sotto il controllo saldo dei paesi che poi, cioè dei governi che fanno accordi con la Russia. Questo per dire che è una situazione assolutamente complicata, di cui noi sappiamo molto poco in Occidente, in cui non so neanche se mi sento di dare sinceramente delle linee di analisi geopolitica. Sapete, se avete ascoltato questo podcast altre volte, che in generale non è una cosa che trovo molto interessante fare la disamina geopolitica di una situazione. Quello di cui siamo sicuri è che la popolazione locale in entrambe queste regioni se la sta vivendo abbastanza male, e la polizia sta compiendo una serie di violenze nella regione di cui non è mai stata resa responsabile in alcun modo. E quindi chiudo qui. Questa era una puntata sul Karakalpakstan, su quello che sta succedendo da 2 anni a questa parte in questa regione del mondo, che è abbastanza ignorata, devo dire, anche negli spazi dedicati alle notizie sull'Asia centrale, quindi proprio un'area del mondo di cui si sa molto poco. Penso fosse importante parlare di quello che sta succedendo anche perché l'Italia compra dall'Asia centrale gas e petrolio, e quindi essere consapevoli di conflitti che accadono in luoghi del mondo dove noi siamo attori economici penso sia molto importante, penso sia doveroso. E chiudo con questa canzone che è un remix techno di Aybek Jumashev, di una serie di musica tradizionale, di musica nazionale classica karakalpaka, e questa era Lorda d'Oro. Un saluto a tutte quelle che ci stanno ascoltando, in particolare a chi lo sta facendo privato della propria libertà personale. Ciao ciao! Karakalpakistan. Karakalpakistan. Karakalpakistan. Karakalpakistan. Il processo di deuzbekistanizzazione del Karakalpakistan. Il processo di deuzbekizzazione del Uzbekistanizzazione. Uzbekistanizzazione. Uzbekistanizzazione del Karakalpakistanik. Karakalpakistanik.